Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Scajola si dimette, soffro perché da ministro non posso difendermi, dice. Napolitano a Genova risponde alla Lega, celebrare l'unità significa guardare avanti. Grecia bloccata, 2 giorni di sciopero contro le misure anticrisi. Fermato un sospettato per l'attentato a Times Square, è un pakistano cittadino americano. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Si è dunque dimesso il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. Lo ha annunciato davanti a microfoni e telecamere in una breve conferenza stampa. Buongiorno a Stefano Folli. Buongiorno. Tra poco lo commenteremo. Prima però sentiamo cosa ha detto da Elisabetta Fiorito. Da 10 giorni sono vittima di una campagna mediatica senza precedenti, quindi mi dimetto per difendermi. Con queste parole Claudio Scajola lascia l'incarico. Non posso continuare a fare il ministro come ho fatto in questi 2 anni. Scajola ha convocato una conferenza stampa al Ministero di Via Veneto per leggere una breve dichiarazione. Sentiamone un passaggio. Non potrei, come ministro della Repubblica, abitare in una abitazione in parte pagata da altri. Questa è la motivazione principale, la motivazione più forte che mi spinge a dimettermi da ministro della Repubblica, convinto di essere estraneo a questa vicenda, sicuro che sarà dimostrato, ma altrettanto certo che, poiché considero la politica un'arte nobile con la P maiuscola, per esercitarla bisogna avere le carte in regola e non avere sospetti. L'ex ministro ribadisce quindi la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati, in particolare l'aver ricevuto denaro da imprenditori coinvolti nell'inchiesta degli appalti del G8. Secondo le accuse, Scajola avrebbe ricevuto 900.000 euro dall'architetto Zampolini, progettista del gruppo Anemone, per l'acquisto di una casa di 180 metri quadri con vista sul Colosseo. Le mie dimissioni, spiega Scajola, permetteranno al governo di andare avanti. Il passo indietro era stato suggerito anche dai giornali di centrodestra, Giornale Libero e da Maurizio Gasparri. Per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. E questi i fatti, grazie ad Elisabetta Fiorito. Stefano Folli, era l'unica via possibile, te l'aspettavi? Beh sì, sì, me l'aspettavo, perché tutta questa vicenda è stata, secondo me, gestita molto male. Io credo che Scajola avrebbe dovuto immediatamente fornire delle spiegazioni dopo le prime uscite di stampa, le prime rivelazioni. Doveva andare, secondo me, subito dai magistrati, visto che non era indagato e quindi era una persona informata dei fatti. Invece si è traccheggiato, si sono aspettati giorni, c'è stata una situazione via via sempre più compromettente, compromessa per lui, e alla fine io credo che davvero non ci fosse, di fronte alle testimonianze, tutto, non c'era altra strada che le dimissioni. Indubbiamente per il governo è un brutto incidente. Ti aggiungo un dato, le dimissioni di Scajola erano anche il tema del nostro sondaggio questa mattina. Gli ascoltatori abbiamo chiesto se fossero opportune le dimissioni del ministro dopo la vicenda che lo ha coinvolto. L'84% degli ascoltatori di Radio 24 ha risposto sì. Ovviamente non è indicativo, ma secondo te è un sintomo? Ma era una vicenda che all'inizio è stata sottovalutata dallo stesso ministro, e direi, credo, anche dal Presidente del Consiglio, che la riteneva superabile, e poi via via si è dimostrato che invece non era superabile, che c'erano troppe circostanze, troppe voci, troppe testimonianze, anche l'idea di non subire processi mediatici era troppo debole. In un paese libero la stampa pone questioni, fornisce informazioni, fa inchieste, è inevitabile, non ha niente a che vedere con la gogna mediatica. Io ritengo, ripeto, che Scajola avrebbe dovuto presentarsi subito ai magistrati, fornire subito le spiegazioni del caso, andare in Parlamento invece di rinviare le calende greche. Ancora ieri si parlava di andare dai magistrati il 14 maggio e poi solo successivamente in Parlamento. Voleva dire non rendersi conto che ormai c'era una valanga in moto che poi è finito per travolgere Scajola, non c'è dubbio. Resta un attimo con noi, perché intanto dai finiani arriva la richiesta di approvare al più presto il DDL anticorruzione varato il 1 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri. A chiederlo questa mattina Italo Bocchino, che preme anche per un consenso bipartisan. La vicenda di Scajola, scrive il deputato sul sito di Generazione Italia, ripropone la questione della trasparenza. Il PDL, essendo il più grande partito italiano, scrive, al dovere di dare una risposta all'opinione pubblica. E ora è corsa al successore, sono circolati diversi nomi. Poco fa la smentita di Giancarlo Galan. Un altro nome circolato è quello di Paolo Romani, vice di Scajola, che ha le deleghe alle comunicazioni. Ecco cosa ha detto questa mattina al microfono di Marta Cagnola. Se fa il suo nome, alcuni giornali fanno il suo nome come possibile sostituto di Scajola. Oggi sono qua per parlare di Italia Digitale. Io ho mandato un messaggio di solidarietà a Claudio Scajola, i miei rapporti con lui sono antichi, risalgono a molti anni fa. Gli sono vicino in un passaggio difficile, quindi ritengo di dover esprimere in questa sede solamente la mia personale solidarietà a Claudio Scajola. Forse è ancora presto, Stefano Folli, però secondo te ora che i scenari si aprono? Ma il rimpasto sulla carta potrebbe anche non essere una cosa complessa, salvo che però incrocia con il malessere che c'è all'interno del PDL. Io credo che il gruppo di Fini non si farà sfuggire l'occasione per porre un po', diciamo, per puntare i piedi. E lo ha già fatto Bocchino in qualche modo questa mattina, insomma. Del disegno di legge sulla corruzione, il quale secondo me non risolve il problema, perché la corruzione si potesse rimuovere con un disegno di legge, sarebbe bellissimo, ma però indubbiamente era un segnale che il governo voleva dare e che poi invece è stato in qualche modo contraddetto, perché il disegno di legge si è inabissato, non se ne è saputo nulla per settimane e settimane. Il fatto che ora venga ritirato fuori ha un significato politico, naturalmente, vuol dire che i finiani intenderanno fare una battaglia sulla trasparenza, quindi su alcuni aspetti legati alla legalità, ai comportamenti, e tutto questo naturalmente configura quell'incidente un po' di percorso che dicevo prima. Berlusconi dovrà gestire il rimpasto con grande equilibrio, con grande attenzione, senza scontentare i gruppi che si confrontano in questo momento all'interno del PDL, e non dimentichiamo la Lega, che potrebbe anch'essa avere qualcosa da dire. Grazie, allora staremo a vedere che succederà. Grazie a Stefano Folli nel frattempo. Alla politica però noi restiamo per aprire un altro capitolo, un'altra polemica. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è a Genova, dove domani aprirà allo Scoglio di Quarto le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Questa mattina è stato all'Ansaldo, si parla molto di Made in Italy, ha detto il Presidente della Repubblica, ma cosa c'è di più Made in Italy di ciò che si fa qui, facendo riferimento alla storia manifatturiera italiana. Poi però è tornato sulle polemiche con la Lega per le celebrazioni per l'unità. Io sono qui, voi lo sapete, per celebrare domani l'anniversario della partenza della spedizione dei Mille, ma credo che le visite di oggi, a cominciare da questa, non siano un fuor d'opera, perché in fin dei conti celebrare il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia significa diverse cose. Significa verificare da dove veniamo, ma anche dove siamo arrivati e dove andiamo. Così dunque le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L'Italia può rafforzare la sua produttività e molto, ma servono riforme, dice intanto il rapporto OCSE sull'Italia, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Efficienza e competitività del sistema paese al centro del rapporto dell'OCSE sulla regolamentazione normativa presentato questa mattina qui al Ministero dell'Economia. Buoni giudizi per l'Italia da parte dell'organizzazione internazionale grazie alle riforme intraprese dall'Italia, soprattutto nel campo della pubblica amministrazione. Dice il rapporto OCSE, i costi delle imprese sono scesi di 4 miliardi di euro, in particolare per quelle piccole e medie. Molto è stato fatto in Italia, secondo il segretario generale dell'OCSE Gurria, ma molto resta da fare, a partire da quelle riforme che possono stimolare la crescita. Metteremo mano alla riforma del fisco, annunciato quindi Tremonti. Più in generale, ha detto il ministro dell'economia, un eccesso di regole può essere un ostacolo allo sviluppo di un paese. Infine, la crisi crisi economica in Grecia, si è perso troppo tempo, ma ora ci siamo, ha detto ancora Gurria. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, noi proprio in Grecia allora andiamo, perché oggi è il giorno dello sciopero nazionale. La Grecia si fermerà per 48 ore. Vittorio D'Arold, buongiorno. Sì, sono cominciate questa mattina le prime manifestazioni, un gruppo, un centinaio di manifestanti del sindacato comunista FAME ha occupato simbolicamente la Capitoli stendendo un manifesto con appunto la scritta in inglese e in greco: popoli di tutta Europa, ribellatevi. Dopodiché adesso è partita la manifestazione degli insegnanti che protestano per i tagli del 20% ai loro stipendi, e successivamente ci sarà quello degli infermieri. Domani sciopero generale anche del settore, oltre quello pubblico, anche quello privato, nello stesso momento in cui appunto il Parlamento, da cui sto parlando, domani dovrebbe cominciare appunto l'esame della manovra di austerità. Oggi la borsa sta perdendo il 3%, su paure e timori che il piano di aiuti di 110 miliardi non sia ancora sufficiente a fermare l'incendio che può scatenare appunto l'incendio di tutta l'Eurozona. Vittorio, sentiamo, sono momenti un po' agitati ovviamente in queste ore. Sul Partenone sono comparsi dei grandi striscioni, lo dicevi tu, in greco e anche in inglese, perché lo sciopero di oggi non è diretto solo verso il governo greco, in qualche modo anche verso l'Europa. Sì, loro, diciamo così, le forze sindacali, anche ho intervistato il presidente del sindacato dei dipendenti pubblici greco, che l'Europa in qualche modo doveva intervenire prima, doveva evitare il tracollo, la bancarotta di questo paese, e in qualche modo anche Bruxelles ha mancato di controllare, e quindi dicono anche che questa è la crisi di un sistema che probabilmente partirà da qui, perché questa è la periferia di Eurozona, ma dovrebbe poi, se non fermata in tempo, come appunto l'Unione sta cercando di fare, potrebbe creare problemi a tutta l'Europa. Grazie a Vittorio D'Arold, naturalmente torneremo a collegarci con Atene nel corso della giornata. Ci spostiamo ora invece dall'Europa agli Stati Uniti, dove è stato arrestato un uomo sospettato di essere coinvolto nel fallito attentato di sabato scorso a Times Square. Faisal Jihad was arrested in connection with the attempted car bombing in New York on Saturday. Mr. Shahzad, an American citizen, was taken into custody at JFK Airport in New York as he attempted to board a flight to Dubai. Con queste parole il ministro della giustizia americano Eric Holder ha annunciato l'arresto di Faisal Shahzad, l'uomo di 30 anni di origini pakistane, naturalizzato statunitense e fermato ieri notte all'aeroporto Kennedy di New York mentre cercava di imbarcarsi su un volo per Dubai con destinazione finale in Pakistan, paese dove di recente l'uomo avrebbe trascorso parecchi mesi. Residente in Connecticut, Faisal Shahzad avrebbe acquistato 3 settimane fa la Nissan trasformata in autobomba che sabato avrebbe potuto causare una strage nella più famosa piazza di Manhattan. È chiaro che l'intento dietro questo atto terroristico era uccidere cittadini americani, ha detto il ministro della giustizia. It's clear that the intent behind this terrorist act was to kill Americans. Holder ha poi precisato che le indagini vanno avanti e che si seguono varie piste, non escludendo che possa esservi coinvolta più di una persona. Faisal Shahzad, intanto, comparirà nelle prossime ore davanti ai giudici della Corte federale che formalizzerà le accuse contro di lui, mentre il ministro dell'interno pakistano Rehman Malik ha promesso la collaborazione del suo paese. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Notizia dell'ultima ora, il senatore Giuseppe Ciarrapico, il figlio Tullio ed altre 5 persone sono indagati dalla Procura di Roma. L'accusa truffa in relazione a contributi dell'editoria che sarebbero stati percepiti illegalmente dalle società che fanno capo al parlamentare. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 20 milioni di euro tra immobili, quote societarie ed un'imbarcazione di lusso. GR24, le notizie di oggi. Scajola si dimette dopo le ultime notizie di stampa sulla casa acquistata a Roma. Soffro, dice, perché da ministro non posso difendermi. E poi il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Genova risponde alla Lega: celebrare l'unità d'Italia significa guardare avanti, dice. La Grecia bloccata, 2 giorni di sciopero contro le misure anticrisi. A New York è fermato un sospettato per l'attentato a Times Square, è un pakistano cittadino americano. E come dicevamo, riprendiamo restando negli Stati Uniti. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche sta facilitando il compito delle squadre di soccorso impegnate a contrastare la marea nera nel Golfo, che si estende ormai su oltre 200 km di lunghezza e 110 di larghezza. Ma oggi, date le buone condizioni meteo, si prepara un'operazione storica. I particolari nel servizio. Sarà un'operazione senza precedenti, dicono dalla compagnia petrolifera BP, un'operazione che dovrebbe essere in grado di contenere la fuoriuscita di greggio stimata in 100.000 barili al giorno. Si tratta di tre cupole di 70 tonnellate l'una installate sulle falle e posate sul fondo dell'oceano a 1.500 metri di profondità. Oggi, visto che il tempo lo consente, verrà installata la prima. Questo sistema permetterà di recuperare il greggio e di aspirarlo grazie a una nave di perforazione Enterprise situata sulla superficie. Negli ultimi tre giorni venti forti e mare agitato avevano impedito alle squadre di soccorso di tentare d'arginare la chiazza di greggio che si estende ormai su oltre 200 km di lunghezza e 110 di larghezza e che, a detta degli esperti, rischia di raggiungere la Florida. Ieri Tony Hayward, che sentiamo, amministratore delegato della British Petroleum, ha assicurato che pagherà tutti i costi necessari ed appropriati per la bonifica delle zone contaminate dalla marea. La compagnia petrolifera si impegna inoltre a pagare tutte le richieste di indennizzo legittime e verificabili per le perdite e i danni dovuti alla marea nera. Secondo alcune società, i danni provocati dalla perdita di petrolio all'industria ittica e al turismo potrebbero raggiungere i 6 miliardi di dollari. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. In Europa intanto il vulcano islandese continua a derottare generando la nube di cenere sui cieli europei. Stamani i voli in arrivo in partenza dall'Irlanda sono rimasti bloccati. Le autorità irlandesi hanno disposto la ripresa dei voli per le 14 ore italiane, tra circa mezz'ora. Questa mattina intanto il vicepresidente della Commissione europea responsabile per i trasporti, Antonio Tajani, ha proposto di includere anche i tour operator e le agenzie di viaggio in eventuali aiuti di Stato. Verso le elezioni in Gran Bretagna e dopo il Times e l'Economist, anche il Financial Times ha dato oggi il suo appoggio a uno dei candidati. Sentiamo. If we go on with Labour, it will be more debt, more Se continueremo con il Labour, avremo più debiti, più tasse e più declino. A tre giorni dal voto più imprevedibile degli ultimi anni di politica britannica, il candidato conservatore David Cameron affonda colpi ai laburisti di Gordon Brown, il paladino della ripresa economica. Lui, Cameron, per la prima volta nella storia, si è lanciato in una campagna elettorale 24 ore su 24 per raggiungere anche i pescatori, fornai e netturbini che lavorano di notte. Ogni voto conta, soprattutto quando un terzo dell'elettorato britannico sta arrivando al 6 maggio ancora indeciso. Don't let Labour let you down a fourth time. Non vi fate deludere dai laburisti per la quarta volta, incalza il liberal democratico Nick Clegg, che promette cambiamento, ma di certo non quello dei conservatori, che pensano già di avere la vittoria in tasca. Gli ultimi sondaggi YouGov danno ai Tory il 35% di preferenze, seguiti dai liberal democratici e laburisti entrambi al 28%. Ma i numeri che veramente contano in questi ultimi due giorni prima del voto sono i chilometri che i tre candidati stanno percorrendo per raggiungere tutte le circoscrizioni più deboli del regno, nella corsa tesissima verso Downing Street. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. L'Italia ha le carte in regola per passare definitivamente alla TV digitale terrestre entro il 2011, un anno prima del termine previsto. Lo ha annunciato Andrea Ambrogetti, presidente del Consorzio delle emittenti sul digitale terrestre, alla quinta conferenza nazionale. E tra due settimane l'inizio della rivoluzione toccherà alla Lombardia. Andrà tutto bene, almeno così dice Ambrogetti al microfono di Marta Cagnola. Stiamo andando bene, al di là dei motivi di soddisfazione personali, credo che ci sia un motivo di soddisfazione di tutto il sistema. Dire oggi, nel 2010, che l'Italia è digitale, dopo 4-5 anni di lavoro, credo sia il motivo di soddisfazione per il Paese, perché per una volta tanto siamo al passo con l'Europa, se non addirittura davanti. E poi è un motivo di civilizzazione, al di là del passaggio tecnologico, anche proprio di cultura, e far entrare tutti gli italiani, anche quelli che per età, abitudine, non hanno pratica con il mondo del digitale, non hanno internet a casa, semmai probabilmente l'avranno, proprio attraverso il mezzo più diffuso e più usato, la televisione, entro in questo nuovo mondo che è fatto di programmi ma anche di servizi e di dati che può rendere a tutti la vita migliore. Adesso tocca la Lombardia. È lo switch off più importante che facciamo, perché sono 5 milioni di famiglie tutte insieme. La Lombardia, il Piemonte occidentale, le province di Parma e di Piacenza iniziano tra 2 settimane il passaggio con l'anticipazione di Rai 2 e Rete 4, per arrivare poi tra settembre e ottobre al passaggio finale. Siamo già al 70% di penetrazione qui in Lombardia, con appunto oltre il 50% di televisione digitale terrestre. Io credo effettivamente che anche la Lombardia potrà passare con successo questo appuntamento. E siamo al calcio. Nicola Rizzoli di Bologna, l'arbitro designato per la finale di Coppa Italia tra Inter e Roma, in programma domani sera all'Olimpico, ma intanto ancora si discute del campionato. Difficile che la Federcalcio possa prendere provvedimenti per quanto successo in Lazio-Inter. Difficile perché è quasi impossibile provare che i giocatori della Lazio abbiano perso apposta e perché non ci sono precedenti in materie di partite scarsamente combattute a fine stagione e piena la storia del calcio. Non si può escludere invece l'apertura di un fascicolo d'inchiesta come vorrebbe la Roma e come da ieri chiedono incessantemente politici di ogni schieramento che non hanno perso l'occasione per esprimere il loro parere. Di certo in Via Allegri c'è imbarazzo per quanto visto all'Olimpico e rabbia per la caduta di immagine del nostro calcio, che da ieri è raffigurato come parodia sui giornali di tutto il mondo. Una brutta figura planetaria che arriva alla vigilia di appuntamenti fondamentali come l'assegnazione degli europei del 2016. Sotto inchiesta, ma da parte della magistratura, finirà anche la denuncia di Lotito sulle minacce di morte con proiettile in busta chiusa ricevute alla vigilia di Lazio-Inter. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:25, ci fermiamo qui con GR24, un saluto da Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione, in studio Pietro Lacorte, prossima edizione del giornale alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.